Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Le parole del presidente del Consiglio italiano, Mario Monti, preoccupato per la scarsa crescita dell'Europa. Le aste dei titoli di Stato spagnoli e italiani con i rendimenti in salita. I possibili scenari nel caso di una caduta dell'euro. I risultati delle elezioni in Grecia, dove il fronte pro-euro ha ottenuto la maggioranza. E le reazioni dei mercati. Il summit dei leader del G20 a Los Cabos in Messico, dove si è parlato della situazione dell'Eurozona. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa puntata di Economia in Europa. Oggi ho l'occasione per fare il punto sulla dinamica delle decisioni europee in una fase particolarmente intensa e particolarmente cruciale per l'Europa e per il Paese. Sono parole del Presidente del Consiglio italiano Mario Monti, che ha parlato alla Camera dei Deputati mercoledì 13 giugno. E fra i vari temi toccati, Monti ha parlato proprio degli obiettivi perseguiti dall'Italia rispetto all'Unione Europea e alla possibilità di chiedere aiuti e protezione. Sentiamo. Quali obiettivi verso l'Unione Europea? Beh, nella primissima fase abbiamo avuto l'obiettivo di mostrare, con le azioni che facevamo all'interno del Paese, di non aver bisogno della protezione un po' paralizzante altrui. Posso rivelare che in quella fase eravamo molto sottoposti a paterni, qualche volta materni, consigli. Ma perché non fate domanda di appoggio, di finanziamento da parte del Fondo Salva Stati o del Fondo Monetario Internazionale? Questa situazione l'ha vissuta per primo il mio predecessore, il Presidente Berlusconi, nelle giornate del G8 o G20 di Cannes, a fine ottobre, primi novembre. Ma poi anche noi, nei primi 2-3 mesi abbiamo avuto questo tipo di comunicazione. Abbiamo preferito che il Paese cercasse di fare da sé, non perché sia una cosa necessariamente disdicevole essere assistiti, ma abbiamo visto che l'assistenza, adesso la Spagna ce l'ha per le banche, una cosa specifica, ma un'assistenza across the board, generalizzata, perché un paese non si rimette in piedi da solo con la finanza pubblica, vuol dire la cosiddetta troica. La disciplina di bilancio e la compagna di viaggio è necessaria e deve essere accompagnata da politiche europee appropriate. Sentiamo sempre il Premier Mario Monti mercoledì alla Camera. Siamo tutti consapevoli dell'ansia di crescita così necessaria, e l'ansia di crescita ci può portare qualche volta a dividere il tempo in categorie logiche che non hanno grande riscontro nella realtà, cioè avuti questi buoni risultati sul piano della finanza pubblica potremo ben chiudere una fase 1 disciplina del bilancio e aprire una fase 2 crescita. Non è così, prima di tutto perché la disciplina di bilancio dovrà essere una nostra compagna di viaggio alla quale ci abitueremo sempre di più e che non è necessariamente foriera di recessione o di depressione se è accompagnata sul piano europeo e italiano da altre politiche appropriate. E infine Monti ha ribadito che la preoccupazione maggiore è dovuta alla scarsa crescita che si riscontra in Europa. La maggiore crescita, se messa in cantiere in modo credibile, aiuterà anche a risolvere i problemi dei mercati finanziari. Lo spread che ho trovato a 574 sul marco è sceso via via fino a 250-260, con alti e bassi, poi è cominciato a risalire, non per un fatto specifico italiano, ma per le turbolenze nel mercato europeo, connesse soprattutto alla Grecia. Se al Consiglio europeo del 28 giugno, meglio sarebbe stato prima, ma almeno quello del 28 giugno, ci sarà un credibile pacchetto di decisioni europee sulla crescita, se quindi si recepisce una prospettiva di sviluppo, allora, è stato il nostro argomento, lo spread italiano diminuirà

secondo quanto ci possiamo vedere seguendo di continuo le vicende spagnole, è la seconda che hai detto, come si dice, nel senso che è il contagio che prende dove riesce a prendere. Certo, non sto dicendo che la Spagna non ha colpe o non ci sono problemi, anzi, i problemi andranno ad aggravarsi da qui alla fine dell'anno sicuramente. Però sembrava fatto apposta, un piano da 100 miliardi per le banche, e sembra il giorno dopo i mercati l'hanno bocciato, gli spread sono schizzati di nuovo, come a dire non bastano. Mm. E anche il dato sulla morosità dei prestiti era abbastanza previsto, cioè c'è un report e gli investitori li vedono queste cose, queste informazioni circolano, un report di Standard & Poor's della settimana scorsa che dice che ci vorranno almeno 4 anni per stabilizzare il settore delle costruzioni, che è la grande bolla che ha fatto crollare tutto in Spagna. 4 anni per stabilizzarla con perdite per le banche probabilmente intorno ai 260 miliardi nei prossimi 2 anni. E sono dati che circolano, che ci sono, magari con più ottimismo, con più pessimismo, anche a seconda di chi li fa, perché non è che queste società e queste grandi banche d'affari siano esenti da interessi privati e particolari, come è giusto che sia del resto. Però la situazione spagnola è sicuramente grave, e si sa che è grave, e aggiungo che sui conti pubblici ci saranno notevoli tensioni nei prossimi mesi. La Spagna non riuscirà a rispettare gli obiettivi che si è prefissa e che al momento, come dice la Germania di Angela Merkel, sono gli unici trattati e gli unici accordi che sono stati messi nero su bianco, al di là poi delle richieste che vengono fatte nei confronti di Berlino, dell'Europa, dell'Unione Fiscale, Monetaria e Politica. Sempre più spesso le tensioni nell'economia europea vengono ricondotte alla severità di un modello, quello austero della Germania di Angela Merkel, che sta condizionando l'intera Unione e, secondo alcuni, non sarà in grado di incentivare un reale sviluppo per quei paesi periferici già in difficoltà, che si vedono imposte ulteriori misure di rigore. Sentiamo a questo proposito l'analisi di Luca Trabattoni, responsabile per l'Italia e il Mediterraneo di UBP Asset Management. La mentalità tedesca si basa su un assunto che è dimostrabile, cioè non fanno altro che trasferire agli altri la loro esperienza di successo. Negli ultimi 10 anni la Germania ha attuato quello che sta predicando di fare agli altri, sostanzialmente, quindi ha attuato una politica, noi diciamo oggi, di austerità, io direi molto più semplicemente di rigore. Ha tagliato dove serviva, ha ridotto i costi, ha incentivato le aziende, ha riformato il lavoro, ha fatto accordi con i sindacati, ha aumentato la produttività e quindi ha fatto in modo che la Germania potesse essere competitiva. La Germania aveva già attuato questo piano quando ha integrato la Germania dell'Est, quindi non ha fatto altro che sviluppare e incentivare un modello che aveva già iniziato a sviluppare nella fine degli anni Ottanta. Quindi questo che cosa vuol dire? Che cosa succederà alla Grecia? Che cosa chiede adesso la Germania dopo le elezioni? Quindi che cosa potrebbe servire a calmare un po' il mercato? La Germania chiede, naturalmente beneficia di questa situazione in quanto un euro debole consente alla Germania di essere competitiva a livello di esportazioni globali. Quindi ricordiamoci che la situazione è in mano ai politici. La situazione che oggi viviamo in Europa è un po' come se ci fosse stato un incendio. Abbiamo da una parte i pompieri, che sono sostanzialmente le banche centrali, e dall'altra parte abbiamo i costruttori, quelli che dovrebbero ricostruire questa casa che sta andando in fumo, e sono i politici. Però la logica dei politici non è quella di un tecnico o quella di un banchiere centrale. I politici rispondono ai propri elettori, e questo il mercato credo lo stia indicando, ci stia dicendo il mercato con quello che sta succedendo in questi giorni. Dobbiamo andare verso una unione Stati Uniti d'Europa o confederazione di Europa, di paesi europei. Questo è un po' il dilemma. E infine, questa è stata anche la settimana del G20 a Los Cabos in Messico, dove i capi di Stato erano chiamati a discutere anche dei temi legati alla crisi economica europea. Ho visto che c'è stata sorpresa perché non si è tenuta la riunione serale ipotizzata tra il presidente Obama e i paesi membri dell'Eurozona. La ragione è molto semplice: si è parlato tutto il giorno di Eurozona, naturalmente anche di altri problemi, ma moltissimo di Eurozona, e poi era stato sì immaginato che alla sera ci potesse vedere ulteriormente, ma mentre c'era lo spettacolo dei fuochi d'artificio io mi trovavo